Questa iniziativa nasce dalla richiesta delle educatrici, degli insegnanti, che a loro volta hanno avuto dai bambini e dai ragazzi delle scuole dell'infanzia, dell'elementare, delle medie, delle sollecitazioni, perché i bambini, anche se piccoli, oppure ragazzini, giovani di 10, 11, 12 anni, si stanno facendo delle domande e quindi hanno sentito l'esigenza di trovarsi in piazza per un momento di condivisione per richiamare la pace. Questo appuntamento è preceduto anche da un lavoro che le stesse insegnanti, le educatrici stanno facendo anche a scuola. Certamente, certamente. Diciamo che questa manifestazione è un po' il punto di raccolta di una serie di lavori, di elaborati, di pensieri che questi ragazzi faranno. E la cosa bella, a mio avviso, è che andiamo dall'elementare al liceo, sarà anche una delegazione del nostro liceo, Giordano Bruno, qua di Budrio, quindi prendiamo tutta una fascia di ragazzi, da bambini a giovani cittadini, e questo credo che sia un messaggio molto importante, perché dà l'idea proprio che anche le giovani generazioni non sono insensibili a questa tragedia che ci ha colpito. Nel concreto, cosa succederà venerdì? Ci sarà un piccolo corteo, naturalmente in sicurezza, partendo dal nostro campo sportivo fino ad arrivare in piazza Filopanti a Budrio, e lì ci sarà un incontro con tutte le classi delle elementari, medie e una rappresentanza del liceo, ci sono alcune centinaia di ragazzi, di bambini e ragazzi, e lì ci sarà una lettura, ci saranno musiche e un momento di incontro. E i bambini più piccoli, quelli delle materne, della scuola dell'infanzia, invece anche loro faranno qualche, naturalmente legato alla loro età e al loro livello di sensibilità, dei lavori con le educatrici, ma rimarranno all'interno delle scuole e vedremo come poi potranno mostrare questi lavori. È molto importante, perché pensiamo che dare ai giovani anche la possibilità di partecipare, di trovarsi insieme per esprimere i loro sentimenti rispetto a questa tragedia, sia importante proprio soprattutto per loro, oltre che per dare un messaggio di pace per tutti. Oltre a questo, anche Budrio contribuisce alla raccolta di aiuti per le popolazioni colpite in Ucraina. Certamente, abbiamo già avviato una raccolta, anzi domani partirà una prima spedizione, una prima parte verso Bologna, perché noi ci rivolgiamo all'Associazione Italia Ucraina, che poi provvederà alla spedizione. È una raccolta sì di indumenti, di beni, diciamo, di prima necessità, adeguati a quella che è la situazione. C'è stata fatta una richiesta particolare, quindi non cercheremo di mandare cose superflue, ma cose che possono essere veramente inutili. Poi chiaramente ci sarà la Regione, la Croce Rossa, tutte le organi, la Caritas, che invece poi si occuperanno di spedizioni più importanti. Servono farmaci in questo momento, farmaci importanti da chirurgia di guerra, insomma, e chiaramente non possiamo raccoglierli noi, però c'è già l'interesse, l'intervento della Regione. Ieri abbiamo fatto un incontro in prefettura con tutti i sindaci, proprio per mettere a fuoco quelle che sono le esigenze, non ultima quello dell'accoglienza, perché sappiamo che già dai prossimi giorni, anzi qualche segnale lo abbiamo già adesso, ci saranno profughi, soprattutto donne e bambini, che arriveranno dall'Ucraina e arriveranno qua in Italia. E in questi giorni stiamo vivendo, insomma, un clima anche di grande polarizzazione, contrapposizione, anche violenza verbale, che poi i più piccoli, come dire, assorbono anche guardando la televisione, ascoltando i discorsi. Lei cosa dirà a questi ragazzini e a questi bambini? Ma dirò parole semplici, parole che credo possano comprendere tutti, ma soprattutto i bambini, che la pace è un valore universale e che la guerra è comunque sempre un male per tutti. Io penso che avrò delle sorprese, perché noi pensiamo che i bambini non stiano attenti, non assorbono, invece sono convinto che già dai più piccoli, poi sono i più grandicelli ancora meglio, saranno in grado di esprimere dei concetti che forse stupiranno anche noi adulti.